Avete tre oggetti a disposizione. Una maglia di lana grezza, dei coni di metallo, delle biglie di vetro. Il suono si propaga con difficoltà nei materiali con una composizione flessibile e irregolare. Quale oggetto è più adatto per proteggervi dal canto delle sirene?